X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Paolo Gentiloni, 60 anni, romano giornalista dal 31 ottobre, ministro degli esteri del governo Renzi, deputato dal 2001, presidente della commissione di vigilanza prima, ministro delle comunicazioni del governo Prodi 2 poi, discendente della famiglia dei Conti Gentiloni, imparentato con Vincenzo, autore del patto che segnò l'ingresso dei cattolici nella vita politica italiana. Militante del movimento studentesco negli anni 90, diventa portavoce del sindaco Rutelli, assessore al Giubileo. E tra i sostenitori della scalata di Renzi al partito, prima al governo poi, agli esteri, dove è nominato a sorpresa un uomo al posto di una donna, caso raro nel mondo renziano, adesso deve gestire molte situazioni calde e difficili e tra poco sarà a Lubecca al G7 in Germania. L'ultima situazione difficile l'ha provocata il Papa con le sue parole semplici e chiare sul genocidio del popolo armeno. La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso 3 grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno. Anche oggi il messaggio della Chiesa è il messaggio del cammino della franchezza, del cammino del coraggio cristiano. Ecco, ministro Gentiloni, un papa che parla chiaro esplode la polemica. Ma riguarda solo una polemica che riguarda solo il rapporto tra Turchia e Vaticano? Ma in questo caso certamente sì, e penso che la Turchia abbia risposto al Papa con dei toni poco comprensibili. Ecco, lei ha detto parole ingiustificate. Beh, tutto sì, qui, anche perché il ricordo che Giovanni Paolo II, 15 anni fa, aveva già detto usato parole simili, sia pure con uno stile diverso. Vabbè, lo stile di Papa Francesco è più diretto. È diretto. Ecco, ma di fronte alla reazione della Turchia, il governo italiano che fa? Niente, eh? Beh, aver detto il ministro degli esteri di considerare ingiustificata quella reazione. Questa è la reazione. In diplomazia non è fare niente. Non è fare niente, bene. Senta però cosa mi ha detto nel 2008 Gheddafi a proposito del rischio dell'ingresso della Turchia in Europa. Qual è il rischio della Turchia in Europa? No, io non ho detto che la Turchia non deve entrare a far parte dell'Europa. Ho solo spiegato le conseguenze che ci saranno con l'entrata della Turchia. E cioè? Cioè faccio una previsione su quello che succederà dopo l'adesione della Turchia. Qual è il rischio? Per quanto riguarda il mondo islamico, anche gli estremisti islamici gioiscono per la possibile entrata della Turchia nell'Unione Europea. Questo è il loro cavallo di Troia. Io sottolineo soltanto le conseguenze dell'entrata del cavallo dentro Troia. Beh, chiarissimo Gheddafi, 2008, è un'opinione certa. La Turchia oggi è più lontana dall'ingresso in Europa oppure no? Ma io non considero Gheddafi un grande opinionista. No, però dice una cosa. Il processo si è molto rallentato. Molto rallentato. E, personalmente non lo ritengo un fatto positivo perché coinvolgere la Turchia in una dinamica europea significa spingere la Turchia nella direzione giusta. La Turchia esiste, ha 100 milioni di abitanti, è nella NATO ed è vicina all'Unione Europea. Senta, ha ucciso Gheddafi, però la Libia è al centro dell'esplosione del terrorismo dell'ISIS. È stato un errore ucciderlo senza preparare la transizione? Forse era inevitabile, ma certamente siamo intervenuti senza avere in mente quello che sarebbe successo dopo. Ma chi ha sbagliato di più? Molti dicono la Francia. L'iniziativa è stata presa all'inizio dalla Francia. Il governo italiano forse era il governo più debole della storia repubblicana in quel momento. Ma anche il meno favorevole forse, no? Però non aveva la forza di opporsi, era veramente un governo debole, erano gli ultimi mesi di Berlusconi. Berlusconi, infatti. Senta, ma si parla di rapporti economici fra Sarkozy e Gheddafi come una delle cause della pressione francese. Sono solo gossip o c'è qualcosa non di... Non ho la più pallida idea. Senta, ministro Gentiloni, restiamo alla Libia. Lei all'inizio è sembrato favorevole a un'azione militare in Libia. Senta quello che diceva. Io credo che bisogna porsi il problema con le Nazioni Unite di fare qualcosa di più. E quindi è pronta a combattere l'Italia, sì o no, Ministro? Beh, è pronta a combattere naturalmente nel quadro della legalità internazionale, però non possiamo accettare l'idea che a poche ore dall'Italia, in termini di navigazione, ci sia una minaccia terroristica attiva. Ecco, sempre la stessa idea. Sì, noi stiamo lavorando per cercare di costruire quel quadro di legalità internazionale con l'ONU che consenta di un'opzione militare. Perché non è che si può intervenire così. No, ma dico che consenta un'opzione militare. Che consenta per ricostruire la Libia, sì, e sorvegliare un processo l'opzione di pace militare, di avere anche una presenza militare. Ma la presenza militare non serve per fare una spedizione al deserto, serve per ricostruire, sì, la Libia. Ci vuole una base di Nazioni Unite. Senta, l'hanno definita un ministro crociato, le piace? No, assolutamente no. Perché? Perché di tutto c'è bisogno tranne che di crociate. Se uno dice che bisogna combattere il terrorismo, non dice che bisogna fare una crociata. Questo combattimento contro il terrorismo lo facciamo assolutamente con la maggioranza dei paesi e dei popoli islamici. Ma esiste l'ipotesi di una Libia spezzettata per fare, in qualche modo, per mettere ordine nel paese? Per noi sarebbe un rischio, perché se si spezza la Libia in due, noi rischiamo di trovarci di fronte alla parte più radicalizzata e più estrema della Libia. Ecco, intanto gli sbarchi dalla Libia sono di nuovo esplosi. Non c'è più posto, dice il Corriere della Sera oggi. Si parla di 250.000 sbarchi nei prossimi mesi, ma sono impossibili da accogliere. Noi ne abbiamo avuti 170.000 l'anno scorso. L'aumento sarebbe assolutamente ancora più difficile da gestire. Non dobbiamo però seminare il panico, abbiamo gestito la situazione l'anno scorso, sì, però dobbiamo risolvere il problema alla radice. Il problema alla radice è quello che dicevamo prima, la stabilizzazione della Libia. Certo, però non sono libici questi che vengono in Italia, nessuno. Non c'è quasi nessuno. La Libia è una porta aperta. Appunto. Triton però non è certo la soluzione adeguata per ora, si vede. Non è la soluzione adeguata e francamente che una superpotenza economica come l'Europa spenda 3 milioni al mese su questa emergenza è poco. Non è un granché, appunto. Ecco, però c'è chi parla addirittura di 500.000, non di 250.000, di 500.000 nei prossimi tre mesi. Ma io numeri non ne darei, perché penso che rischiamo di... Però si sa che lì ci sono proprio masse di uomini, di esseri umani che premono. Dobbiamo stabilizzare la Libia e a livello internazionale colpire le organizzazioni che organizzano questo traffico. Ripeto, non è una fuga di libici. Vengono dal Corno d'Africa, dalla Siria, dal Centrafrica, usano una porta aperta verso l'Europa. Lo sa che per quanti morti ci sono nel Mar Mediterraneo, i pescatori parlano di una trasformazione addirittura dei pesci. Tragedie sono avvenute in questi mesi. Come dice spesso il mondo delle Nazioni Unite, l'Italia ha anche il merito di aver salvato 120.000 vite umane. Sì. Ricordiamoci che chi salva questi disperati in mare sono quasi esclusivamente navi della Marina Militare Italiana. Appunto, per questo dico Triton serve a poco. Ma pensa sempre che i terroristi non arrivano anche coi barconi? Ma io non penso, mi baso sulle informazioni che ci vengono oggi dall'intelligence. Nessuno lo può escludere in teoria, però al momento non ci sono informazioni che questo sia un veicolo utile per un terrorista. Senta, Ministro Gentiloni, l'Italia è il primo fornitore di personale militare non tra i paesi europei delle missioni ONU. Ecco, ma in cambio di cosa, vista la situazione degli sbarchi e la miseria degli aiuti di cui parlavamo prima? Ma in cambio di una centralità in molte aree del Mediterraneo. Pensiamo alle nostre presenze più rilevanti storicamente nel Mediterraneo, che sono quelle nei Balcani e in Libano. In entrambi i casi abbiamo aiutato la stabilizzazione di quei paesi, abbiamo relazioni... Però il problema adesso ce l'abbiamo lì. Sì, però abbiamo relazioni politiche e commerciali nei posti in cui siamo stati protagonisti delle Nazioni Unite, certo, assolutamente straordinarie. Senta, sul piano concreto però l'essere il maggior fornitore europeo di personale nelle azioni dell'ONU non è servito neppure nel caso dei Marò. Senta cosa hanno detto i suoi predecessori, Terzi, Bonino e Mogherini. È una situazione complessa. Io sono convinto e confido che ci sarà un'indagine corretta, strettamente scrupolosa delle norme dello Stato di diritto, di cui questa grande democrazia indiana è esempio. Dobbiamo tutelare i Marò, vedere di riportarli a casa. E io credo che questa strada ci rende possibile sperare in una soluzione fast and fair. Ho incontrato il mio omologo indiano per ribadirgli che siamo determinati a esplorare tutte le azioni e politiche e legali a livello internazionale per vedere riconosciuti i nostri diritti ad esercitare la giurisdizione sul caso dei due Marò. Ecco, lei è il quarto ministro che se ne occupa degli esteri. Che cosa aggiunge? Aggiungo che ci stiamo... Siamo sempre lì, allo stesso punto. Aggiungo che ci stiamo lavorando e che purtroppo non abbiamo, anche con canali politici diretti, con la nuova leadership indiana, per il momento non abbiamo risolto niente. Ma neanche la Mogherini in Europa, ministro degli esteri europea, più o meno, non serve a niente. L'Europa ha assunto delle posizioni, gli Stati Uniti hanno assunto delle posizioni, Ban Ki-moon, io ne ho parlato con lui 10 giorni fa e 2 volte ha sollevato la questione con Modi. Però, dopodiché insomma, l'India è un paese di grandissime dimensioni, il suo governo è un governo molto forte, noi stiamo cercando di risolvere i rapporti diretti. Vabbè, vedremo. Senta, Terzi si è dimesso quando i Marò dovevano ritornare in India. Lei pensa che ha fatto bene o male? Ma io penso che Terzi abbia avuto un ruolo anche nel modo in cui si è generata questa vicenda, no? Ricordiamoci sempre che oggi molte fanno polemiche, ma questa vicenda è nata in un certo periodo, in un certo modo e con determinate responsabilità. Senta. Quindi di fronte a questa questione le responsabilità non sono tutte uguali. Senta, quindi Terzi ha responsabilità. Sì. Ha responsabilità certamente maggiori di Emma Bonino o di Federica Mogherini. No, naturalmente, ma lui si è dimesso. Ha fatto bene o male secondo lei? A dimettersi, ma quella è una sua scelta personale. Io mi riferisco alle responsabilità nella nascita del problema. Senta, ministro Gentiloni, ma quando ci sono i rapimenti internazionali, i riscatti vanno pagati oppure no? No, l'Italia si attiene alle regole internazionali. E ecco, non però l'Italia spesso li paga, come ha detto e scritto l'ex direttore del Manifesto Polo sul caso Calipari Sgrena. Senta cosa ha detto. Era stato pagato il riscatto della Sgrena? Beh, sicuramente è stato pagato anche una cifra, probabilmente 12 milioni di dollari, questa è la cifra che si diceva, che si dice. Ecco, nessuno ha smentito in modo chiaro e netto. Ma noi siamo pieni di si dice in questo campo e naturalmente è un campo in cui vige la riservatezza di Stato. Vabbè. Ma quello che è sicuro, quindi non si esclude, quello diciamo, che è sicuro è che in quelle aree sono stati liberati negli ultimi mesi cittadini di 7-8 paesi occidentali. Appunto. Diversi. E quindi l'Italia fa quello che fanno anche gli altri, tutti, quindi i non paesi, diciamo che non e non paga riscatti. Va bene. Senta, ministro Gentiloni, in Tunisia l'attacco dell'ISIS al museo è stato un attacco alla democrazia tunisina, l'hanno detto. La comunità internazionale si è stretta intorno al presidente, ma oltre le parole si è fatto qualcosa di concreto? Ci sono molti progetti da una parte di collaborazione tra regioni italiane e francesi e regioni tunisine. Dall'altra stiamo lavorando per una conferenza di investimenti da fare a Tunisi. Ne ho parlato sia con il presidente tunisino che con il ministro degli esteri francese. E la Tunisia ha ragione, oltre ad avere un sacco di complimenti bisogna fare anche qualcosa. Ecco, ma per esempio, le faccio un esempio, la Costa Crociere ha subito cancellato come prima reazione Tunisi dal giro del Mediterraneo. Ecco, dato che il 12% del PIL è fatto dal turismo della Tunisia, non si può far cambiare idea, per esempio, la Costa Crociere come piccolo segno di solidarietà? Ma la Costa Crociere decide quello che crede. Naturalmente, è un'azienda privata. L'ha fatto sull'onda di un episodio gravissimo. Mi auguro che ci ripensino. Un consiglio magari lo si può dare. Esatto, no? Mi auguro che ci ripensino. Noi possiamo dare anche una mano, per esempio i nostri sindaci potrebbero contribuire a promuovere nelle città anche promozione turistica a favore di paesi come la Tunisia. Ecco. Perché dopo un attentato considerare quel paese come un paese finito, è un caposaldo di democrazia. Ci fu un attentato a Casablanca quattro anni fa con 18 morti, non è che abbiamo smesso di andare in Marocco. Certo. Ecco, la comunità internazionale, l'ha detto anche lei, si era in qualche modo e si sta impegnando o dice di impegnarsi a finanziare la Tunisia. Senta cosa aveva promesso, senta Tarak Ben Ammar. Il mondo intero ci ha promesso quattro anni fa, dopo la rivoluzione, 20 miliardi di dollari, un mini piano Marshall. Allora mi sono chiesto, ma i 250 miliardi di dollari dato alla Grecia, e benvenga, per carità, sono amico della Grecia, ma la pace in Tunisia non è un vantaggio per il Mediterraneo e in particolare per per l'Italia, che è così vicino a noi? Lei pensa che sono soldi che arriveranno dalle sue sensazioni o anzi rapporti? Dunque, come sa Tarak, alla Grecia i 250 miliardi non sono stati dati, sono stati prestati, tant'è che i guai della Grecia derivano molto dalla necessità di restituire quei quattrini. Ma lui non vuole un regalo. No, ma voglio dire, noi in Tunisia stiamo cancellando una parte del debito dell'Italia verso la Tunisia e facendo progetti di cooperazione molto rilevanti, prima dell'attentato. Dopo l'attentato, conferenza per gli investimenti, collaborazione tra le regioni. Chi finanzia l'ISIS? Chi finanzia l'ISIS? Al 70% le banche che hanno trovato nei territori che hanno occupato, il restante 30% sono contrabbandi vari, innanzitutto di petrolio armi. Poi armi e addirittura beni culturali. Questo deriva dalle indagini fatte dal governo italiano e dal governo americano, che guidano un gruppo che si occupa di finanziamento dell'ISIS. Senta, restando nell'area, la vittoria di Netanyahu in Israele sarà un elemento di stabilità o no nella zona, secondo lei? Difficile dirlo oggi. Se fosse un governo di unità nazionale, coinvolgendo Herzog, potrebbe essere, credo, un fattore di stabilità più facilmente. Ecco, noi ci collaboreremo comunque. Ecco, ma dopo l'accordo tra USA e Iran sul nucleare, sembra quasi nascere un'alleanza inedita tra Israele e Arabia Saudita in funzione anti-Iran. La vede? Ma io sotterraneamente qualche segnale. Certamente ci può essere qualche segnale, ma il principio che il nemico del mio nemico è un mio amico non so se funzioni in politica estera. No. Io credo che da questo accordo, se verrà definito, può venire solo un fatto positivo. Senta, ma nel mondo globalizzato e interdipendente come è il nostro, le alleanze politiche internazionali nascono e muoiono in tempi più brevi di prima. Sta cambiando la geopolitica mondiale. Sta cambiando, e come? Ci vuole un multilateralismo molto più flessibile. Prima si stava da una parte o dall'altra. Esatto. Un secolo fa stavi con gli inglesi o i francesi nel Medio Oriente, poi stavi con gli americani o con i sovietici. Adesso, in volta, ci vuole una coalizione. Ma c'è un po' di nostalgia di questo mondo bipolare, secondo lei, nella comunità internazionale? Ma io non ne avrei, perché vedo, oltre a tanti rischi, anche tante opportunità positive. Pensiamo all'Africa, per la mia generazione era un continente perduto, oggi è un continente centrale, con delle prospettive economiche interessanti. Senta, ma la diplomazia internazionale in questo adattamento riesce appunto ad adattarsi al cambiamento, nel quale forse le multinazionali giocano più velocemente sul piano globale, con più efficacia e velocità? Deve fare uno sforzo per adattarsi. Uno sforzo di formazione anche dei quadri. Sì, bisogna farsene una ragione, cioè tutti i paesi, anche dei paesi medi come l'Italia, devono essere molto più attivi sulla scena internazionale, perché la costruzione di queste coalizioni un po' alla carte in diverse aree del mondo richiede un lavoro. Non c'è più l'America da seguire e basta. L'America c'è ancora, è fondamentale, ma non è l'unica. Ognuno deve fare la sua parte. Senta, ma la formazione delle nostre diplomazie va in questa direzione? gradualmente credo che sia la dimensione economica che la dimensione di un protagonismo maggiore si stia affermando. Certo, la vecchia scuola era diversa. Ah, certo, è molto più lenta anche. Lei è forse il più significativo dei rutelliani che lavorano con Renzi, ma si somigliano in qualche modo a Renzi e Rutelli? Ma Renzi ha fatto quello che forse Rutelli non era riuscito a fare. Ma c'è una continuità fra loro, secondo lei, in qualche modo? Lei è stato... Ma non lo so, non è sempre difficile rispondere. Certamente Renzi è riuscito in un'impresa che era da 20 anni si era tentata. Ma qual è la sua qualità maggiore di Renzi, dico? Ma direi la velocità, la determinazione. E il difetto? Ma forse un po' di fretta. Il Papa ha avuto un ruolo centrale anche nel riavvicinamento tra Cuba e gli Stati Uniti, l'hanno ringraziato loro. È il nuovo protagonista di questa geopolitica che non è più occidente-centrica, come dicevamo prima? Ma è uno dei protagonisti. È proprio la realtà che descrivevamo prima che fa sì che il mondo abbia più protagonisti. Ecco, però Obama lo ringrazia per aver favorito il ravvicinamento con Cuba, lo fa pubblicamente. Sembra quasi inseguirlo sulla riconquista dell'America Latina. C'è questo problema? Io ricordo John Kerry mi telefonò il giorno prima dell'annuncio del ristabilimento, dando la notizia al governo italiano e anche sottolineando quanto il ruolo del Vaticano, del Papa e del Cardinale Parolin fosse stato importante. Ecco, il Papa ha anche agito direttamente in sintonia con Putin per bloccare i bombardamenti americani previsti da Obama su Assad e sulla Siria, che era il nemico numero uno, adesso è diventato l'alleato, fa parte di quel spostamento di alleanze. E un ruolo importante giocò in quella vicenda anche il governo italiano. Allora era ministro Emma Bonino e noi fummo tra i paesi che rallentarono molto questa idea di risolvere il problema. Probabilmente il Papa e Putin hanno fatto di più. A bombardamento. Beh, ma anche i singoli governi, agli americani, i singoli governi europei si devono convincere di avere un ognuno ruolo. Ognuno un ruolo. Senta, il Papa comunque invoca la pace, e il suo nemico numero uno, la pace è il suo mestiere, il suo nemico numero uno sono i venditori d'armi. C'è una guerra più profonda che dobbiamo combattere tutti. Questa guerra contro il male comporta dire no all'odio fratricida, dire no alla proliferazione delle armi e al loro commercio illegale. È davvero una guerra per problemi? O è una guerra commerciale per vendere queste armi nel commercio illegale? Ecco, si riuscirà mai a intervenire su questo traffico? Perché da una parte poi alla fine le armi le vendiamo anche noi dico Occidente, e sono le armi che poi sono anche armi dei terroristi. Però il Papa ha fatto una distinzione. Sì. Commercio illegale, certo. Allora combattere il commercio illegale delle armi è sacrosanto. La situazione del mondo di oggi non può essere affrontata senza armi. Purtroppo è banale, ma è così. Ne abbiamo parlato per la Libia, ne potremmo parlare per tante altre situazioni. Certo, assolutamente. Ma l'Europa riuscirà, divisa com'è, perché ogni decisione europea è molto complicata, abbiamo visto anche nelle sanzioni all'Unione Sovietica, riuscirà a trovare un ruolo in questo equilibrio precario e difficile obiettivamente? Ma dipende molto dalla... Cioè a quali condizioni, secondo lei, che vede le cose parlando con tutti? La condizione è dare più peso al ruolo dell'Unione Europea. Oggi in politica estera ci vuole l'unanimità per decidere qualsiasi cosa, 28 paesi. Ma ha senso? Dalla è possibile Lituania decidere? Alla... Lei ha fatto tanta politica. Ci siamo riusciti sulle sanzioni alla Russia, non è stato facile mettere d'accordo. Ma le sanzioni alla Russia secondo lei sono da tenere? Beh, questo lo discuteremo tra qualche mese, ma io dicevo che anche in un tema così delicato si è riusciti a mettere d'accordo 28 governi. Però quella fatica è una fatica che l'Europa deve superare, non è più possibile, bisogna dare più peso alla politica estera europea e alla politica di sicurezza. E come si può superare una necessità di 28 sì? Cioè un direttorio, qualcosa? Naturalmente bisogna creare le condizioni per una modifica dei trattati in senso più federalista. Ecco, Un'ultima domanda. Cosa vorrebbe essere contento di riuscire a fare nei prossimi mesi di governo, diciamo nei prossimi 6-8 mesi? Ma naturalmente, se possibile, stabilizzare la Libia e svolgere nel Mediterraneo il ruolo che la nostra posizione storica e geografica ci consente. Noi abbiamo moltissimi amici in tutto il Medio Oriente, in Africa, in tutte le sponde del Mediterraneo. L'Italia forse è il paese tra i grandi paesi con meno nemici che esiste. Capitalizzare questo oggi, in un mondo che ha meno certezze e meno superpotenze, è possibile ed è fondamentale. Leader del Mediterraneo, insomma. Ma leader non perché guida gli altri, ma perché è capace di tessere relazioni. Senta, un'ultimissima domanda al politico esperto. Ma secondo lei, una volta approvata la legge elettorale, si voterà? Nel 2018. Sì? Sì? Quello è obbligatorio. No, vedo il naso che si allunga. È obbligatorio. Grazie. Mix 24. Allora Mario, ce l'hai un titolo? Sì, allora Gentiloni non ha la felpa, ma è felpato. E tu Pietrangelo? Più che un crociato, le parole in croce. Musica! Era un omino piccino piccino, con un vestito di stile un po' strano, negli occhi aveva uno sguardo sereno e una colomba dipinta sul cuore. Bella questa canzone! E perché lissi onde, flessuose linee, pur se terrene, diventano rapidi voli. E oggi in metropolitana, a Valle Aurelia precisamente, tutti i pendolari ad un certo punto hanno cominciato a fare agire i propri sogni e d'improvviso sono diventati piccini piccini e così vestiti tutti in un modo un po' strano, tutti con l'aria di chi viene da lontano, con lo sguardo sereno, capacissimi poi di orbare le rose di tutte le spine e pronti ognuno a uscire alla propria destinazione, ma in ogni stazione appena fuori per ciascuno c'è un disco volante da dove, sorridendo nel cielo, poter sparire e diventare tutti quanti abitanti di un mondo lontano. E sono omini generati dalle viscere della metropolitana, diventati adesso villeggianti nel cielo. Nel cielo della bella primavera, restituendosi a questa canzone degli anni 50, era un omino piccino piccino cantata da Clara Iaione. Bella, vai Mario, con le tue bolle. Orbare le rose dalle spine. Allora, è un bel pezzo nuovo, è un po'. Questo l'ha scelto Valerio stamattina. Ah, bene, bene. Alessandro, io mi sbaglio sempre. Oh, 2 anni. Vabbè, non importa. Allora, intanto, dove andiamo? Missione internazionale antiterrorismo. Perché, visto che c'era Gentiloni stamattina, allora ho dato un'occhiata ai lavori parlamentari. Guarda caso che cosa c'è. Appunto, la conversione in legge di un decreto legge già fatto dalla Camera vale una cifretta, 900 milioni di euro, cosa vuoi che sia. Per esempio, lo sapete che spendiamo ancora 60 milioni di euro all'anno nei Balcani, che ne spendiamo 126 milioni per Eupol in Afghanistan e altri 120 per le forze di polizia afghane? E quanto costa la missione UNIFIL in Libano, lo sapete? Quanto? Quasi 120 milioni, 119. Beh, il totale quanto l'hai fatto? 900 circa, 900, 800 e fischia. No, ma è che spendiamo 132 milioni per combattere l'ISIS, ma io non ho ancora visto come. A me piacerebbe saperlo, no? Sarebbe interessante. Insomma, sono soldi del contribuenti e, secondo me, visto che siamo proiettati un po' ovunque, poco spesso, rendicontati dal punto di vista dei risultati. Bravo, l'interesse nazionale, questo è il punto. Quindi aspettiamo di capire. Salamino. Salamini dopliti. Perché sono come gli opliti, gli ulivi. Allora, hanno sempre nomi strani i nemici. Il nuovo killer è la xylella, il batterio killer che sta uccidendo gli alberi secolari di Puglia. Dal 24 al 26 aprile, alla Fiera del Levante a Bari, l'olivo sarà protagonista di un racconto dove scempio e speculazione procedono di pari passo. Su basi scientifiche, possiamo dire discutibili? Già da ieri, per esempio, circolavano le foto di alberi secolari ridotti già in trucioli. Si sta arrivando a un solo risultato: desertificare la fascia del Salento. L'ulivo, come scrive Chicca Maralfa, è il focolare collettivo, scandisce il tempo dell'esistenza, è il forziere di tradizioni che si sono fatte valori, è il vero albero della vita, vorrei dire con una punta di malizia piuttosto che la retorica dell'Expo. E questo è il primo vero passo per nutrire il pianeta, salvare l'ulivo dalla xylella. Francesco Pezzuto, ieri, lui che è un contadino ed è un combattente, ha diffuso sui social le fotografie di quanto sta accadendo. Il territorio pugliese, ricordiamolo, è quasi tutto a denominazione di origine protetta. Sono oltre 370.000 gli ettari coltivati e sono il 32% del totale nazionale. Adesso, con questa vera battaglia che deve salvare 190.000 imprese, tutta la retorica del nutrimento dovrebbe per un attimo sospendersi e incontrare la realtà e magari rileggere la bellissima poesia di Tirteo, dove dei guerrieri ne fa ulivi che sono come opliti. E degli ulivi e della xylella parleremo domani in tutta la nostra puntata. Sara, la tua quota rosa. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai. Paola Saluzzi pensava di levarselo con un cinguettio via social, e invece è venuta giù una valanga. Sky ha speso parecchi miliardi per avere la Formula 1. Andava tutto bene tra immagini 3D e bellocci che fanno stand up ai box. Quando Paola la rossa, Paola Saluzzi, tifosa sfegatata della Ferrari, dopo che Alonso aveva punzecchiato la sua ex scuderia rampante, ecco, Paola la rossa per dispetto ha twittato parole critiche contro Alonso. Lui, per dispetto, durante il Gran Premio della Cina si è rifiutato di parlare con i giornalisti di Sky Sport. Sky Sport, per il dispetto di Alonso e i suoi giornalisti, sospende Paola Saluzzi dal suo programma per una settimana. Ed è così che Sky salva la suscettibilità di Alonso e per una settimana, mettendo in castigo Paola Saluzzi, si priva la stessa Sky di spirito critico e di libertà. La libertà non è star sopra un albero. Grande giornalista che fa benissimo il suo lavoro. Brava Paola. Mix 24. Questo è un pezzo onirico, sognante, meraviglioso. Si chiama Dusty Toff, è un gruppo, un duo, The Do. Parliamo di missili in realtà, quindi fanno un rumore un po' più sinistro, non così celestiale e angelico. E la notizia del giorno negli ambienti diplomatici è questa, cioè che Mosca fornirà a Teheran un sistema missilistico che si chiama S-300. È un sistema molto sofisticato, uno dei più efficaci, è fatto da una serie di veicoli e lanciamissili, ovviamente. E c'era un divieto, diciamo, un accordo tra grandi potenze per non venderlo all'Iran, e questo era in vigore fin dal 2009. Putin ha deciso invece di farlo cessare. Il fatto ha implicazioni strategiche molto grandi, potete immaginare. Naturalmente. La difesa è offesa, ovviamente, dello spazio aereo intorno all'Iran per 200-300 km. D'altronde, parliamoci chiaro, se uno comincia un'azione c'è la reazione, c'è la reazione. E quindi è evidente che nella battaglia in corso tra Stati Uniti e Russia entra anche questo capitolo. C'è già stata una telefonata tra Lavrov e Kerry, vediamo che cosa succede, però molto interessante, devo dire. Scacchiera in movimento, Salamini. Sì. Per un ventennio, in coincidenza col trionfo berlusconiano, la sinistra è andata alla ricerca di un Berlusconi di sinistra. È arrivato Matteo Renzi, il PD, l'erede di quel che fu il più grande partito comunista d'Occidente, oggi al governo, e la destra, pur continuando ad avere Berlusconi, è alla ricerca di un suo Matteo Renzi. Il mito della rottamazione conquista quel che resta della fortezza berlusconiana e già si staglia, come neppure troppo tempo fa ci fu Samorì, ve lo ricordate, quello col nome di una merendina, che fu il famoso drago che doveva uscire dal cappello di Berlusconi. Già si staglia la giovane, bella e brava e bionda Silvia Sardone, pronta a raccogliere l'eredità di Silvio. Intanto Berlusconi, davanti al caos scoppiato nell'imminente gara delle regionali, davanti alla prospettiva di riaccimolare percentuali a una cifra, medita di non metterci la faccia, e il Renzi da dare al centrodestra c'è già, e Roberto Saviano. Perché dopo aver passato il Rubicone con Maria De Filippi a Canale 5, insomma, il può più, anche candidarsi, tu, il più no, è fatto, perché comunque questo è pur sempre... tirata fuori dal cappello una delle sue, Pietrangelo. Senti, Marina Milone, oggi di cosa parliamo? Ci spostiamo oltreoceano. È la storia di una donna, ma soprattutto di una coppia che è di nuovo alla ribalta. Sono Bill e Hillary Clinton, una storia di tradimenti, complotti, ma anche di una grande solidarietà. E con Mario Platero commentiamo la candidatura di Hillary alle presidenziali americane e l'apparizione sulla scena anche della figlia, Chelsea. Mario, ancora una bolla, grazie. Rapidissimo. Vale la canzone, perché guarda, fantastico, senti che giro di chitarra, Claudio D'Arus. Allora, molto rapido, in Iraq le cose vanno meglio relativamente, parliamo del posto più pericoloso della terra insieme alla Siria, però ISIS sta perdendo terreno. Da quando è cominciata la campagna aerea degli Stati Uniti con l'aiuto dell'Iran a terra e quindi i movimenti sciiti, ISIS ha perso un bel po' di territorio, circa il 30% di quello che aveva conquistato fino ad agosto 2014, quando poi sono cominciate le operazioni aeree e terrestri. Parliamo di 17.000 chilometri quadrati di terreno perso. È una guerra lunga, come si vede, che noi abbiamo qui sempre seguito e continueremo a fare, perché ci riguarda molto da vicino, più di quanto possiamo immaginare finora. E infatti, e dopo la pubblicità, il giornale radio, ma prima e poi di Giorgia. E poi